detto se voglio sto sola a quel che dici tu. Io non ci credo più. E non presentarti con mazzi di fiori non è stato facile uscirne fuori. Mama.